dipendenti. Più dipendenti? Insomma, le risate che ci abbiamo fatto quell'anno in Spagna era micidiale, cazzo. Ma se no che sanno, cazzo. Ma hai detto, cazzo, se non ci ha furato, non mi va un coso, cazzo, lì un tiro. Non ne lascio in pace, chissà niente, boh, non ne gioco io. Io sto per ridere. Anditi, è per essere la tirata a te. Vabbè, non mi senti la tirata a te, cosa fai? Mi farà male e mi incazzerò anche. E un attimo, però certo l'abbiamo. Oh, ehi cazzo, è partito 10 minuti prima di noi, me. Poi che lo ce l'aveva adesso? Senato di profitti, cazzo. Dov'è? Tu è partito prima? E anche no. Marcel. Perché quando ero giovane ero un uomo molto serio, facevo discorsi molto assennati, mi. Ma sei, mi raccomando, parcheggia bene il rivolto, ribalta e attaccalo bene. Poi l'altra volta, no, ma lì 2 centimetri. Un altro 2 centimetri, era un metro di staccato. Oh, Franco lì, a te di che mi fido, perché tu ti conosco, sei proprio un ragazzo, dice cose giuste. Ma no, lo faccio quello che mi hai detto, lo faccio. E io faccio un discorsi assentati. Giulia. E poi. Allora sto facendo la mattina una cisterna di latte, la sera porto fuori, quando capita non c'è. Quindi, comunque cazzo, ho riso la notte lì con Michelino, cazzo, non me la vagio, ma non devi cambiare. Oh, Giulia. Cazzo, attivamente, bella questa volta, cazzo, bella, ma quanti ce ne sono ammazzati? Cazzo, che tu cazzo sei culo? No, ma che adesso, man? Cazzo, cazzo. L'ultima, telefono con Michelino, è passato Marcello, ciao Fradi, ciao Marce, e Michelino, esci da culo coglione. Oh, ma vicinale che hanno detto a Gambino che facevano le cose porcacciole noi, cazzo, dice che avevamo le frasbatti. Che c'ho cazzo, allucinante. Ne ha dato al Renato, Renato dalla vita, Renato, ma c'è la cosa proprio. Ma poi meglio lo facevo un ragazzo serio, ma cosa sta dicendo? Poi meglio il capo spazione. Oh, però, visto cosa ha detto, che a me mi ha fatto un approccio con ragazzo Silvio, figurati l'opinione che c'ha verso i tuoi confronti, mi. Cosa pensa chi sei, Ma io sono un bravo ragazzo. E poi la dita Gambino, no, è Gambino, e si ci vuole anch'io, cazzo. Ma anche tu, ma è un bravo ragazzo, sa sì, a lei le piace, no, tu sei meglio di loro. Sì, è un credulone, ci crede a tutto quanto. Sì. Lui ci crede perché è molto assennato. Cosa mi ha detto? Ah, tuo cognato, che fine ha fatto? Ma cosa ci ha fatto? Mi ha detto, chi mi ha cognato? No, è un po', è il tuo cognato, quello è solo. No, cognati camionisti, ma c'è. Cosa? Quello che vuoi conoscere, di Fabio? Ho detto, no, quello non è mio cognato. Come non è il tuo cognato? E chi è? È il marito di mia sorella. Allora è il tuo cognato? No, ma c'è, è il marito di mia sorella. No, non tornano i corti. Sta entrando in furore te, Edo. Oia. No, sempre il tuo sorella, tuo cognato. Te l'ha già detto che lei è il marito della sorella. A me non è un cazzo. Marcia, ma la vuoi capire? Non viene niente. Mi ha detto, però non è come stai dicendo tu. Non è così. Gioia. Allucinante, cazzo. Poi Edo è così. Ma lui te l'ha chiesto. Perché stai lì a picchettare, cazzo, a farsi fatti di lacri, a domandare, a chiedere, a fare, a vedere. Oh, vedi più che la mancanza di cura, no? Che non c'è di nuovo. C'era un tipo con un cazzo, era il fratello incazzato nella casa del centro. Fa vedere di un tipo di continentale, no? E chi tu va via di campo, io non ce l'ho ricoprito un cazzo. E il fratello, adesso lo scendo in mano, da una via, c'è gli spostamenti, E l'ha scritto, poi me l'ha capito un cazzo. Ma insomma, guarda questo, aspetta, questo qui in Sardegna ci verrà poco e niente. E tu hai fratto, quello non ci verrà niente, e la dice perché? Guarda che si sta avvicinando. Ah, no, Marcello! Puoi immaginare, Giulia! Anzi, io da un po' non si è spostato, però da quegli aravi si è imbaccato subito! E Marcello era in camicia a pezzi, a pezzo rotto! Immagini! E quando scoppiavamo la bomba, io ero lì che stavo passeggiando, Leonardo, te l'immagini! Si era già stata in aria pure! Se li saltate in aria anch'io, e tu che ti ero morte! Se no non ha giovinto, l'ho mangiato, mi sei brigato con Fabio, devo stare. Io svegliato, mi cagato dalle puntate, cazzo. Fulminato. Oh, Fabio non è il mio di tutti i culoni, fine aveva ragione, cazzo. Aiuto. Cazzo, lei ti scritto gli lenti sei tondo e due tipo di peso. Alla parte che non lo vedeva. Mi sono sicuro che non c'è fatto. Io ho tiro una bastonata in testa. Ho colpo una bastonata in testa. Mi sono bastonata in testa. Non mi sono bisogno di fare. Non c'è più non c'è più rispetto per le carattere. Ma hai ragione, ma c'è. Che lui voleva fare apposta per mettere alla prova per vedere se non fai gruppo che fa. Per domani cazzo è arrivato per mettere in lezione di oggi mi è arrivato a fare una manovra sola, ma gli è andata di culo, una manovra sola. Vai tu, quindi la frappi di musica che non c'è più la frappi di lui, ma c'è, non fa la famosa niente. Grazie a Dio, cane, non c'è più la frappi di lui, la sua gente è stata un rimorchio se non lo volevo. Qua per quella cisterna manda solo a me, Sinda, perché qua sono l'unico io responsabile qua che tutti i viaggi non li fa nessuno, poi questa manovra particolare. Camino Cambiello, 2575. Ah no, perché eravamo a Cerri, io tu e Alessandro, che eravamo a Trovata, te lo ricordi, che c'è ha agganciato il rimorso. Cazzo, momenti, ne buttiamo la camino a 75. Ma io penso che se tocca il 105 la notte se lo mangia. Puoi immaginare? Che poi è entrato in panico, cazzo. Stanotte è salita, oggi la vedo dura. No, già. Stanotte è salita, mannaggia. Perché? Non ho dormito nulla, poi sono uscito presto a casa, una cosa e l'altra. Sì, caro, devi dormire. No, uguale, io mi sono alzato che non le robe stamattina, allora sono andato a finire il posto con la comprante, invece poi ho cominciato da fino a luna, mi ha detto che faccio mettere il coso, e lui allora ho dormito, adesso Paolo dormo. Se sei scendo di stanno sei restato a posto.